e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, guarda, è già tardissimo, sono le 10.36, cioè le scalmane stamattina, no, vabbè, volevo, che è arrivata la temperatura finalmente volevo decente. Volevo essere un po' sexy. Ecco, ma tu lo sei sempre, anche se ti mettessi... Ho anche le calze a rete. Basta? Basta così, adesso mi ricompongo, perché è primavera. Ecco, esatto, invece ieri io la maratona me la sono fatta al freddo con la felpa, vedi un po' tu. Ragazzi, l'ho allora, dovuto Deborah, dire, l'ho dovuto Deborah dire. È anche medagliata. Esatto. Io vorrei un applauso però adesso a Carmelo. No, aspetta, però diciamolo che non ho fatto quella da 42 chilometri, no, non abbiate paura, ho fatto la staffetta, vai. La staffetta per i miei 11 chilometri e mezzo, me li sono portati a casa. Già arrivare alla fine, viva, è stato un grande traguardo, quindi brava, molto bene, soprattutto perché l'iniziativa era a favore di tantissime Onlus, di tante associazioni di sostegno a persone che non stanno bene, bambini in difficoltà, per cui per questo il valore della mia medaglia. Allora, detto questo, io parlerò di lavoro di nuovo oggi, della grandissima ovviamente polemica scatenata dalle dichiarazioni del ministro Poletti, curriculum e contro referenze, chi vince, voi come avete fatto, come vi siete candidati al vostro posto di lavoro. Tu invece cos'hai? Allora, sì, nel in parte è un tema collegato al tuo, perché io parlo di cervello, inizia il mese Ottimo. Del cervello in collaborazione con gli esperti di Humanitas, l'organo più affascinante e per certi versi misterioso, lo scopriremo strada facendo. Abbiamo un mese di tempo per conoscere i suoi gusti e soprattutto interpretare il suo linguaggio, quindi gli esperti Benissimo. Di Humanitas, oggi avremo il professor Alberto Albanese. Partiamo subito allora. Noi diciamo basta ai raccomandati e le capiedi. Accogliamo la dottoressa Rhonda Miles col suo curriculum internazionale. Un pezzo di merda, mi chiama raccomandata. Lui che è entrato col calcio in culo di babbo primario, ma vaffanculo, vai! Il concorso è andato male, è arrivato un candidato più meritevole di te. Ma da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? Ma guarda sta stronza, 18 pubblicazioni, 32 convegni, viene qua a fare concorso. Ma vai in America a fare soldi! Vabbè, allora, qualche parolaccia, scusate se l'abbiamo sdoganata alle 10:30 del mattino, però su questo argomento quando si scaldano un po' gli animi forse ci stanno. Allora, viene naturale. Il film è C'è chi dice no, una commedia diretta da Gian Battista Avellino sul tema del lavoro in Italia, sul mondo delle raccomandazioni. I protagonisti sono Luca Argentero, Paola Cortellesi e Paolo Ruffini, che diventano dei veri e propri stalker per potersi riprendere ciò che spetterebbe loro di diritto. Naturalmente tutti e tre in difficoltà nel mondo del lavoro, perché sono da sempre passati, si vedono sempre passare avanti altri raccomandati. Allora, dal curriculum alla referenza, dal titolo al campetto di calcio. Qual è la modalità migliore per candidarci per una posizione lavorativa, per un avanzamento di carriera, per segnalarci come profilo giusto per un determinato posto di lavoro? È vero, come dice il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che spesso una buona attività di relazione, come quella che banalmente può nascere anche in un campo di calcio, può essere molto meglio dell'invio a pioggia di curriculum? La sortita del ministro ancora una volta è stata profondamente divisiva. Cuore denari, a cui le strumentalizzazioni non piacciono, è sembrato utile appunto tornare ad affrontare l'ennesimo punto di vista del delicato tema lavoro all'interno della nostra personale crociata, che abbiamo ribattezzato con Nicoletta Chi cerca non trova. Ricorderete, in diverse puntate abbiamo provato a capire perché il tasso di disoccupazione e di inattività professionale in Italia è ancora molto elevato, e al contempo ci sono decine e decine di aziende che hanno posizioni aperte e non trovano curriculum adeguati. Ma allora ci siamo chiesti, il curriculum perde colpi, meglio intensificare le relazioni personali, andare ad incontri, eventi, guardare in faccia le persone, ascoltare e candidarsi a voce per delle opportunità? Ci raccontate a voi che cosa è successo? Hanno pescato e valorizzato il vostro curriculum oppure vi hanno segnalato una possibilità, un incontro combinato, insomma? Eva Maggioni, responsabile InfoJobs Italia, ben ritrovata, buongiorno. Grazie mille. Buongiorno. E Walter Passerini, giornalista della Stampa, responsabile delle pagine del lavoro, dopo esserlo stato per il Corriere della Sera, per il Sole 24 Ore. Walter, ben ritrovato anche a te, buongiorno. Buona a tutti, ciao. Allora, naturalmente, come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Potete anche mandare il messaggi via WhatsApp e anche su Facebook, perché siamo in diretta, siamo live anche lì sulle social network, e oggi ci sarà tutta l'interissima puntata, per cui veramente qua non potete perdere neanche un minuto dei nostri preziosissimi suggerimenti. Voglio cominciare con Walter Passerini, che proprio in questi giorni tiene a battesimo il suo nuovo libro Tutto lavoro, come cercare e conquistare un posto, di Giunti Editore. E questo tuo libro, Walter, dedica proprio alcune pagine alla vabbè, raccomandazione, che non era al centro della dichiarazione di Poletti. Poi magari ci torniamo su questo, anche se in realtà certo, le analisi si sono spese in questo periodo, però insomma tu dici chiaramente è una malattia, oggi chi la promette è difficilmente in grado di mantenerla, bisogna cercare e costruirsi referenze, che è un concetto profondamente diverso, e forse questo è quello che intendeva dire il ministro. Ma insomma, Walter, come affronti tu questo delicato argomento del curriculum contro referenza fino alla deriva estrema della raccomandazione? Ma referenza vuol dire competenza, fa rima con quest'altra parola. Quindi il curriculum, nel segnalare le referenze, valorizza del candidato la sua competenza, le sue qualità. Esce dal mondo, diciamo, mafiosetto delle spinte, delle spintarelle e così via, e propone un territorio dove c'è il merito, cioè la competenza è una, diciamo, un elemento, una leva che viene riconosciuta, no? E su questo si basa la scelta da parte di un'azienda. Quindi il problema è che chi ha delle referenze personali e delle relazioni personali, esclusivamente personali, fa una concorrenza sleale con chi invece nelle referenze e nelle segnalazioni di persone che hanno lavorato con lui pone il candidato, diciamo così, in un mercato meritocratico. Ecco, questo è il tema, cioè come posso in qualche modo dimostrare di avere un'esperienza, molto importante quest'altra parola, esperienza, che non sia appunto fatta in un'azienda amica piuttosto che con un datore di lavoro parente e cose di questo genere. Quindi dobbiamo uscire dal mondo del familismo, del clientelismo, per entrare nel mondo appunto delle referenze e delle competenze. Per il calcetto, ecco, bisogna, diciamo, Poletti ha detto il rapporto di lavoro è un rapporto di fiducia. Sì, perché no? Certamente è un rapporto di fiducia, ma certamente questa fiducia non la si può mostrare attraverso un lungo elenco di nomi di persone che si conoscono, quindi attenzione anche alla creazione della fiducia. La fiducia deve entrare nel mondo della competenza, del merito e del riconoscimento di questi meriti, altrimenti restiamo con la zavorra che ancora il nostro paese ha, perché voi sapete che tra 6 e 7 persone quando cercano lavoro oggi in Italia si rivolgono sempre ai parenti, agli amici e ai conoscenti. Al passaparola, anche se devo dire che sul tema della referenza pure bisognerebbe aprire una parentesi e fare un approfondimento che durerebbe tutta la puntata. No, Deborah, perché stavo pensando anche a tutte le volte in questi anni in cui ho incontrato degli assistenti ai programmi che hanno lavorato con noi, è capitato molto spesso che mi chiedessero in realtà di scrivere due righe, non tanto perché volessero presentarla a nuovi, però insomma per averle lì nel caso di necessità, cosa che io ovviamente non è la leva dell'amico, dell'amico, segnalami un amico, ti segnalo una persona che ha lavorato con me, io ti garantisco la fiducia che questa persona sa fare. Eva Maggioni, allora, sul vostro sito InfoJobs avete inserito proprio un approfondimento su questo tema delicato, quello del curriculum a 360 gradi, come farlo, come non farlo, attenzione al pericolo che non venga letto, come reagire anche rispetto a questa delusione che molto spesso lo è, perché molto spesso le aziende hanno anche questo cattivo costume di non rispondere, no grazie, non ci interessa, ci sentiamo fra due mesi, sarebbe anche magari una pacca sulla spalla che qualche volta per una persona a caccia di lavoro sarebbe necessaria. Però prima di parlare di questo le vorrei chiedere, vi capita di ricevere al vostro portale, che non so quante decine di migliaia ne riceva al mese, di candidature? Abbiamo 7 milioni di candidati, ecco, quindi appunto, quindi diciamo un osservatorio attendibile. 1000 candidati nuovi al giorno in più. Vi capita di ricevere curriculum del tutto improbabili a prima vista e poi magari una volta fatta una bella chiacchierata con il candidato stabilire che si tratta invece di un profilo molto interessante, ma che si era mal posto, aveva scritto male il curriculum, insomma il curriculum quindi non lo rappresentasse affatto? Purtroppo noi non vediamo i candidati e non facciamo pre-screening noi sui curricula, quindi noi siamo un abilitatore che mette in contatto domande e offerte di lavoro. Quindi ovviamente le aziende pubblicano i loro annunci, in questo momento ne abbiamo quasi 50.000, e i candidati scrivono il loro CV. Quindi il nostro ruolo è un po' fuori il famoso matching. La cosa che per noi è molto importante, è proprio un ruolo un po' formativo, sia da parte verso i candidati che verso le aziende, proprio per far sì che i candidati possano mandare la propria candidatura a quelle aziende che sono in linea col loro profilo, proprio perché, come dicevamo l'altra volta, il curriculum a pioggia non interessa più a nessuno. Internet ha aperto tutta Italia ai selezionatori, quindi i selezionatori hanno veramente poco tempo per fare screening, si parla di 10-15 secondi. Detto questo, se io ricevo centinaia di candidature, queste candidature devono colpirmi, devono sedurmi, devono far sì che io abbia la volontà di aprire, approfondire e fare magari un colloquio telefonico o comunque un colloquio de visus. Quindi è veramente molto molto molto importante che i candidati si mettano anche un po' dalla parte del selezionatore e, leggendo il proprio curriculum, dicano: ok, il mio curriculum comunica quello che sono, anche perché altrimenti è vero che ognuno sa quello che è in grado di fare, ma dall'altra parte noi abbiamo una persona che non ci conosce, che non sa niente di noi, e quindi è evidente che dobbiamo riuscire a comunicare in pochissimo tempo, in 15 secondi, di essere la persona giusta per quel ruolo. Esatto. Per quanto riguarda la polemica Poletti, se posso permettermi, io direi che sicuramente i profili social sono fondamentali in questo momento in ambito di recruiting, quindi è evidente che da un certo punto di vista comunicare su un social come potrebbe essere Facebook, che tutti i weekend magari andiamo a fare delle feste improbabili e poi ci presentiamo a un colloquio di lavoro, i recruiter guardano anche questo, quindi l'immagine deve essere coerente con quello che noi vogliamo, certo, fare. Quindi anche la scusa del "io uso i social per la socialità e raccontare quello che faccio nella vita privata", non pensiamo più che sia un atteggiamento corretto. Esatto, in realtà incide molto anche poi in quella che è la nostra vita, appunto, sì, professionale. Ci fermiamo, c'è il traffico. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Cuore e denari. Che cos'è quella faccia? La tua assunzione è saltata. Che cazzo dici? Il direttore ha dovuto aiutare un collega, ha assunto la figlia. Oh, sotto anni mi passano avanti figli di ieri. Io questa merda non l'accetto più. Ascolta, non aveva alternative il direttore. È la figliola di Giannotti. Giannotti? Sì, Giannotti, opinionista di punta del nostro gruppo editoriale. È una situazione delicata. Ma lavoro 10 ore al giorno e 700 ore al mese, senza ferie e malattia. Il direttore mi ha detto che il prossimo sei tu. E lo dice da anni però! Basta, vo' via! Max, non fare il bischero. Dove vai? Fuori c'è nulla. Ecco, da questa clip di questo film c'è chi dice: no, la raccomandazione la do io. Fare i giornalisti oggi, ragazzi, se avete questo sogno di gloria, per un attimo mettetelo da parte, perché non è proprio il momento. Ma insomma, adesso, a parte tutto quanto, se c'è una fortissima determinazione e predisposizione a questo mestiere, ma è anche questo, insomma, un territorio molto pieno, siamo forse un po' in overbooking e magari pensateci un attimo, candidatevi. Lo dicevamo anche forse Walter Passerini nelle altre trasmissioni, magari adesso andare a fare il giornalista del grande network televisivo forse non è tanto più di moda, quanto invece puntare sulla comunicazione per le aziende. Il tema è questo, pure è un altro settore dove forse le raccomandazioni e il passaparola l'hanno fatta da padrone in passato rispetto a delle selezioni fatte con altri criteri. Detto questo, nel tuo libro è già uscito peraltro tutto lavoro, Walter? Sì, da qualche giorno. Ecco, citi una ricerca ISFOL che ci racconta come il canale degli amici e dei parenti viene usato, appunto, lo dicevi anche prima, per ricercare lavoro da 6 italiani su 10. Non è una buona notizia. Perché? No, non è una buona notizia, perché appunto significa il fallimento di un sistema che è fatto di soggetti pubblici e soggetti privati, che oggi i centri per l'impiego e in particolare le agenzie del lavoro, ma anche i portali, diversi portali e così via, non riescono a costruire, diciamo così, delle concrete opportunità di lavoro, cioè trovare il lavoro, se non per meno del 10% complessivamente. Vuol dire che tutto il resto, tutta la quantità di persone che trovano un lavoro, lo trovano attraverso dei mezzi informali, personali, spintarelle e conoscenze, amici degli amici. Questo non funziona. Ora, questo obiettivo che in questo momento noi abbiamo, di aiutare le persone a trovare, a costruire un proprio percorso lavorativo e professionale attraverso degli strumenti appunto professionali come le agenzie, i centri per l'impiego e così via, questo è molto importante. Il problema è che oggi siamo ancora indietro, purtroppo. Io segnalo tra le cose che si sono distinte in questi ultimi 30 anni, possiamo dire, oltre all'ingresso delle strutture private e un certo miglioramento dei centri per l'impiego, c'è quest'ultima novità che è rappresentata da questa Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, no? Che tra l'altro sta selezionando ANPAL, che sta selezionando 1000 persone, finalmente l'hanno capito, 1000 persone da mandare nelle scuole superiori e nelle università per aiutare i ragazzi non solo a orientarsi nel mondo del lavoro, ma a costruire il proprio progetto professionale. È questo che ci manca, altrimenti, come diceva l'antropologa americana Dorothy Lewis Zinn, che è quella che ha scritto quel famoso libro che consiglio ancora a tutti, La raccomandazione, Donzelli editore, ebbene altrimenti la raccomandazione diventa una mutazione genetica. Noi siamo un popolo che per qualunque cosa deve chiedere una raccomandazione, deve fare un esame sanitario, deve avere la raccomandazione per saltare la fila, deve trovare un elettricista, voglio dire tutto ciò che è anche la vita quotidiana degli italiani è soggetta alla deriva del... Questo non va bene, dobbiamo usare degli strumenti di intermediazione, brutta parola, professionale, senza i quali il nostro è un souk, è un bricolage, è un fai da te, non è un paese per candidati. Allora chiedo qualche istante di pazienza a Damiano da Verona, Gianni da Lecce, lì rinvio alla seconda parte della trasmissione. Volevo fare un commento su quello che ha detto Walter Passerini ad Eva Maggioni di InfoJobs, e chiedendole anche, poi parleremo del vostro sito, come si fa il curriculum, quali informazioni vanno messe, vanno personalizzati a seconda della destinazione, ma le chiedo, serve ancora la referenza associata al curriculum, quella che dicevo io poco fa, mettere 3 buone considerazioni di ex datori di lavoro che dicono sì, tu ti sei comportato bene, per cui puoi candidarti anche altrove? Io credo di sì, dipende, perché ci sono aziende che le richiedono le referenze, quindi è proprio un'esigenza, e aziende che in realtà non le richiedono. Io sono convinta che anche rispetto a quello che diceva Passerini, gli italiani in realtà non si sanno raccontare, e ormai siamo in un mondo digitale in cui è tutto uno storytelling, le aziende si raccontano e via dicendo, quindi la raccomandazione un po' va a saltare un po' il passaggio del mi voglio raccontare io, ma dall'altra parte ci sono dei selezionatori che hanno bisogno che le persone si raccontino, quindi la referenza e io sono convinta che serve, proprio perché le aziende, nessuno referenzierebbe una persona se non è veramente capace, anche perché comunque ci mette la faccia, e sono importanti. Dall'altra parte le persone devono veramente fare un atto di consapevolezza, capire chi sono, cosa sanno fare e raccontarlo per bene. E quindi, magari chiedere aiuto a un professionista che ci aiuti a farlo, perché c'è anche questo aspetto. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. State ascoltando un programma offerto da Danacol, grazie agli steroli vegetali, riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Cuore e denari. Mi chiama raccomandata, a me. Lui che è entrato col calcio un culo di babbo primario, ma vaffanculo, vai! Su, ora bevi un sorso d'acqua. Ti calmi. Poi vai di là e con un sorriso le insegni il suo lavoro. Ma non è il suo lavoro, è il mio, va bene, è il mio. Perché glielo devo insegnare, eh? Crocetta non ha mai avuto una donna. E questa, non chiedermi perché, lo ama. Se ti metti contro di lei, qua è chiuso. E fuori? Sì, lo so, c'è nulla. No, Irma, c'è la fila. Insomma, questo film veramente è stato fatto non per noi, ma proprio per questo momento in cui il tema del curriculum contro referenza, contro raccomandazione, il grande tema del momento, dopo appunto le richiamate più volte dichiarazioni del ministro Poletti di qualche settimana fa, che ha detto insomma qualche volta per trovare il lavoro forse è meglio piuttosto che impegnarsi nel mandare curriculum a destra manca una buona attività di relazione come quella che si può creare nel campo di calcio. Ne stiamo parlando noi questa mattina, raccogliendo anche le vostre testimonianze che adesso sentiremo, con Eva Maggioni, responsabile di InfoJobs Italia, e con Walter Passerini, collega che da anni si occupa di lavoro, appena consegnato appunto alle, non alle stampe, appena uscito il suo ultimo libro Tutto lavoro, come cercare e conquistare un posto, oggi è responsabile delle pagine del lavoro della Stampa. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. È tempo di ascoltare i due amici che ci stanno aspettando da un po'. Damiano dalla provincia di Verona, benvenuto, grazie. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e buongiorno ai vostri ospiti. In breve la mia esperienza: io mi sono candidato a una di queste agenzie interinali per un posto da portiere di notte, ho fatto il colloquio, io ho una licenza linguistica, sono stato scartato per un futile motivo che non sto a raccontarvi per non farvi ridere. No, qua non si censura niente, ci dica. No, allora, faccio il racconto le mie referenze, le mie esperienze, mi dicono va tutto bene, so tre lingue, ho fatto il linguistico, sì, però mi dicono ma lei sa, ha mai fatto il barista? No, dico, io sono qui per fare il portiere di notte, cercate un candidato in albergo. Sì, ma sa, se per caso poi di notte qualcuno chiamasse dalle camere per avere una camomilla, eccetera, lei deve saper fare anche la camomilla. Dico, vabbè, ho capito, ma non sono nato ieri, una camomilla, un caffè o qualcosa. Vabbè, Damiano, allora detto questo, lei da quello che mi risulta è... Detto questo, la signorina, e poi vi racconto anche il perché vi racconto questa cosa, la signorina si è lasciata scappare il nome dell'albergo. Io ho fatto la furbata, sono andato direttamente in albergo con il mio curriculum, ho fatto il colloquio, mi sono speso con il direttore, mi ha chiesto il documento seduta stante per assumermi a tempo indeterminato. Allora, questo per dirvi che il filtro che c'è nelle agenzie interinali, purtroppo, e mi dispiace per i vostri ospiti, non funziona, perché spesso le raccomandazioni le fanno i dipendenti delle agenzie interinali. Certo. Perché sei amico del dipendente. Guardi Damiano, non si deve dispiacere, sopra. grazie per la sua testimonianza, non si deve dispiacere per i nostri ospiti, perché peraltro i nostri ospiti, quando poi altrove ci sono queste criticità, in realtà è molto interessante che lo sappiano, ovviamente anche come lavorano i concorrenti. Ma no, in realtà non sono concorrenti, sono clienti, esatto. Quindi per me ha non saputo è... raccontarsi però. Come... Sì, no, vabbè, diciamo sì. Che la storia della camomilla veramente adesso passerà agli annali, ci farò un altro bel blog, un altro bel post per il mio blog appunto sul sito della non radio. Per prendere le difese delle agenzie per il lavoro, ma molte volte il cliente, l'agenzia del lavoro, per la selezione che fa... Magari l'albergo l'aveva detto che avrebbe voluto. Chiede molto esatto. Di più. Dopodiché ovviamente in base ai candidati che vengono proposti si fa la mediazione. Per cui io non credo che l'agenzia per il lavoro abbia voluto mediare verso qualcun altro, anche perché comunque forse gli ricordiamoci era stato chiesto che... e poi lì esatto. nel contatto diretto non è stato il business dell'agenzia per il lavoro è ovviamente inserire dei candidati, quindi non hanno nessun vantaggio economico a inserirne uno piuttosto che l'altro, quindi io credo che veramente il cliente abbia chiesto delle cose molto specifiche, quindi loro ovviamente raccolgono il fabbisogno del cliente e poi fanno le stesse certo. domande ai candidati. Eva Maggioni, andiamo alle vostre indicazioni pratiche per elaborare un curriculum degno di attenzione, per fare in modo che quando questo documento, a patto che abbiamo individuato naturalmente l'azienda che cerca i requisiti come i nostri, facciamo in modo che l'azienda non lo scarti, perché magari non abbiamo messo le informazioni in maniera corretta, non abbiamo valorizzato abbastanza determinati aspetti. Quali sono gli errori assolutamente da non fare quando si scrive il proprio curriculum, ma magari siamo anche nella condizione che non lo rinfreschiamo da un po', e quando lo mandiamo appunto, che cosa non fare e che cosa fare? Allora, anzitutto bisogna avere un curriculum digitale, proprio perché permette di candidarsi immediatamente alle offerte a cui noi ci riteniamo in linea. Non spaventiamoci di questo termine, perché troviamo già addirittura dei moduli un po' già predisposti dove, sì. dove dover mettere solamente le nostre sì. informazioni e il PC fa tutto da solo. Sì, InfoJobs in realtà ha proprio una serie di moduli che vanno compilati. Vanno compilati con criterio, per cui bisogna mettere delle informazioni che siano reali, che siano congruenti con la nostra esperienza, ma ciò che io consiglio è crearsi più di un curriculum vitae, proprio ecco. perché dal momento in cui una persona ha più esperienze, dall'altra parte ci possono essere più aziende che ricercano le stesse esperienze. Senza mentire, ma magari personalizzarlo un po' a seconda della destinazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi se io ho un'esperienza come customer support e come commerciale, l'avevo detto l'altra volta, in base a ciò che mi chiede l'azienda io evidenzierò un'esperienza piuttosto che l'altra. Fondamentale inserire i risultati che si sono ottenuti in quella posizione, proprio perché all'azienda interessa il risultato, non tanto che io abbia lavorato per 15 anni in una determinata azienda, se non vado a esplicitare i risultati che io ho ottenuto, e soprattutto andare a indicare ciò che sono le competenze che siano sia soft skills che hard skills, proprio perché ormai... Qual è la differenza? La differenza è che le hard skills sono, io so parlare l'inglese, so fare delle proposte commerciali, so utilizzare il CAD, so fare delle cose fisiche, pratiche. Le soft skills invece sono tutte le competenze trasversali, quelle comportamentali, l'intelligenza emotiva di cui tanto si parla. Cioè, l'aver fatto per esempio volontariato, come suggerisce Walter Passerini anche nel suo libro. Assolutamente, oppure la capacità di lavorare in team, la capacità di ascolto, la capacità di interagire con altre persone. Sono spesso sottovalutati nell'elaborazione del curriculum questi aspetti, o non adeguatamente valorizzati da parte del candidato. No, non sono valorizzati proprio perché comunque si pensa che all'azienda sia necessario sapere solo se io so utilizzare il CAD 3D, che è per fare disegni tecnici, no? No, proprio perché comunque noi abbiamo visto con degli studi che stiamo facendo con l'Università Bicocca di quanto ogni professionalità richiesta abbia un corredo anche di soft skills richiesta, proprio perché comunque è la persona che fa la differenza. Quindi fondamentale insegnare tutta la parte di competenze e di risultati ottenuti in base all'esperienza fatta in azienda, inserire le proprie soft skills su quali si è lavorato, sui risultati che si sono ottenuti, oltre ovviamente fondamentale due cose: lettera di presentazione, che deve essere una lettera di presentazione ad hoc, in cui in 10 righe, non di più, che si dà anche l'idea di conoscere l'azienda alla quale ci si rivolge, non sia proprio la neutra presentazione. Assolutamente, ecco, valorizziamo l'interlocutore al quale ci rivolgiamo. Sì, anche perché in quei pochi secondi devo sedurre il mio responsabile di selezione, che deve dire sì, voglio proprio vederti, proprio perché comunque ho visto che tu hai letto con attenzione l'annuncio, che ti sei informato sull'azienda, e quindi che vuoi proprio venire a lavorare da me. Fondamentale. Sì, e poi quello che... Secondo me questo è un aspetto fondamentale. Vi faccio un esempio: come quando a me, Nicoletta, capita di ricevere candidature per ospiti alla nostra trasmissione e arrivano le persone che si occupano di fare relazioni appunto con la stampa per determinate aziende e scrivo: Nicoletta, so che tu ti occupi di salute, non è che vorresti intervistare questa, o so che tu ti occupi di economia a Radio 24, vuoi intervistare, magari ti fanno delle proposte che non hanno nulla a che fare con un il nostro lavoro. No, è offensiva proprio, cadono nel vuoto automaticamente, ma è normale, ritengo. E dall'altra parte il selezionatore vive la stessa frustrazione. Così, proprio perché comunque c'è o l'abitudine di candidarsi a qualsiasi cosa ed è sbagliato, proprio perché comunque la candidatura poi viene cestinata, oppure di non descriversi al meglio, proprio perché è un po' come dire: io so quello che so fare. Ho capito, ma dall'altra parte c'è una persona che non sa chi sei, quindi tu devi riuscire a far sì che la sua lampadina dell'attenzione si accenda, che utilizzi i suoi 40 bit di attenzione per ascoltare proprio quello che tu vai a raccontare nel tuo CV, dopodiché lui ti chiamerà. Altre due cose fondamentali: il personal branding. Quindi si parla tanto di branding per l'azienda, è fondamentale che in un mondo sempre più digitale, sempre più social e via dicendo, ci sia una fotografia adeguata, quindi non sui vari profili, non solo sui profili social, ma anche sul curriculum vitae che io vado a inviare, ci sia una fotografia che sia seria, quindi non con gli occhiali da sole mentre bevo un drink sulla spiaggia sulla tavola da surf. Fondamentale l'email, che sia un'email professionale, quindi non sia ciccio pasticcio no, ma ci sono Topolino 87 vi dicendo, ma io se sono un selezionatore che mi vedo una mail con Topolino 87, ma per l'amor del cielo, faccio veramente fatica a dargli un ruolo professionale, no? E quindi poi tutto quello che va a creare la mia immagine nel mondo del lavoro, che ormai si mischia in un modo importante con il social, che sia un'immagine professionale. Quindi ovviamente ciò che comunico sui social, che sia una cosa esatto. Siamo se seri. Ci volete mettere anche la foto della partita di calcetto dove magari avete trovato il vostro nuovo datore di lavoro, perché no, se l'esito della partita è stato favorevole. Certo. Chiudo con Walter Passerini, purtroppo devo salutarvi, ma su questi temi sapete che noi andiamo avanti ormai con le nostre battaglie da qui all'eternità. Walter, 30 secondi per salutarci. Sì, sapere ingolosire attraverso un'esperienza, delle esperienze. Noi sappiamo che soprattutto per i giovani le pagine bianche del curriculum nascondono tanto lavoro nero. Allora avere la capacità di raccontare delle esperienze magari non propriamente regolari, questo è molto molto importante. Ah. Competenza, esperienza e competenza. E poi volontariato, terzo settore, servizio civile, Corpo Europeo della Solidarietà. Perché? Perché aiutano a delineare la tipologia del candidato. Comunque volevo dire a Nicoletta e Deborah che se per caso volessero cambiare lavoro, beh, io la referenza gliela faccio volentieri. Grazie. Magari anche la dottoressa Maggioni, non grazie. Lo so. Grazie. Sono commossa di quest'ultimo messaggio. No, se sia foriero di capitasse. Grazie molte, Walter. A presto, grazie a Walter Passerini e Eva Maggioni. Buon lavoro, è il caso proprio di dirlo, direi, a voi e a tutti gli altri, quelli che ci ascoltano. Competenze, quindi, e soprattutto usiamo la testa e siamo seri. Sappiamo, dobbiamo saperci raccontare, ho capito? Sì. Ok, andiamo. Abbiamo un mese di tempo a partire da oggi per imparare a conoscere i gusti del nostro cervello. Chissà che ci aiuti anche questo a trovare lavoro. Dobbiamo iniziare a conoscere le sue preferenze, il suo linguaggio. È un amico prezioso, fondamentale, ci consente di percepire il mondo attorno a noi, di pensare, di parlare, ma diciamola tutta, è anche un po' impegnativo. Oggi lo studio del cervello rappresenta forse l'area più eccitante delle scienze contemporanee, quelle che sta vedendo gli sviluppi più rapidi, ma al tempo stesso che ha ancora grandi misteri, ancora grandi zone buie da illuminare. Per questo oggi si parla del cervello come la prossima grande frontiera delle scienze. Noi oggi e per tutto il mese di aprile abbiamo accanto a noi una grande guida, il professor Alberto Albanese, responsabile dell'unità operativa di neurologia prima dell'ospedale Humanitas. Buongiorno professore, che oggi abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi. Buongiorno. Insieme al professor Albanese noi stiamo conducendo, lo sapete, con gli specialisti di Humanitas, La Salute Vien Parlando. È un'iniziativa che ci sta dando grandi soddisfazioni perché stiamo raccontando dalla viva voce dei nostri ascoltatori e dei nostri esperti la salute in modo diretto, molto semplice. Anche qua, professor Albanese, abbiamo fatto uno sforzo, il nostro cervello si è messo lì rotellina per rotellina, abbiamo cercato di arrivare alle case dei nostri ascoltatori per parlare di prevenzione in modo diretto, con parole chiare, ma sempre molto aggiornato sulla ricerca. A proposito di questo, professore, voglio subito segnalare che nel corso di questo mese il professor Alberto Albanese ci segnalerà non le ricerche nuove, ma quelle, come lei mi ha detto, nuovissime nel campo della neurologia. Allora, professore, intanto il cervello non finisce mai di sorprenderci. Che cosa sappiamo di nuovo di questo organo così affascinante e al tempo stesso misterioso? Beh, sappiamo che si è creato per strati, che nel corso dell'evoluzione si sono aggiunti vari strati e quindi il cervello non è semplicemente più complesso di quello degli animali o delle specie inferiori, ma si è stratificato, quindi ci sono delle discontinuità nell'evoluzione filogenetica, cioè dagli animali inferiori fino all'uomo. Quindi la complessità è anche più difficile da comprendere proprio per questa stratificazione un po' irregolare. Sappiamo che è plastico, che il cervello non è solo un decisore, ma è anche in grado di ascoltare e di cambiare. Quindi il cambiamento delle capacità di connessione del cervello e quindi di funzionamento è uno degli aspetti più interessanti e più affascinanti su cui noi possiamo investire anche a livello personale, perché possiamo cambiare, cerebralmente possiamo cambiare. E poi sappiamo anche tanto sulle malattie. Oggi abbiamo tante terapie, tanti farmaci rispetto a 30 anni fa, eravamo disarmati, adesso no, invece adesso curiamo e speriamo, ci aspettiamo di curare meglio e anche di riuscire a sconfiggere alcune malattie, quindi abbiamo anche un ottimismo della ricerca. Mi piace. Allora, 800 24 0024, se il tema vi incuriosisce, quindi per saperne di più su questo organo così affascinante e misterioso che, diciamola tutta, professore, ci tiene in pugno, perché controlla i pensieri, la memoria, il linguaggio, i movimenti, il funzionamento di tutti gli organi. Se invece volete imparare, raccontarci, descrivere gli exploit del vostro cervello, ma anche delle, quelle che voi avvertite come delle defiance, dei dubbi, dei timori, numero verde, WhatsApp al 349-238-6666, mandateci anche i vostri WhatsApp vocali. Siamo in diretta Facebook e quindi leggeremo anche i messaggi che ci arrivano su Facebook, se invece volete essere informate sulle novità della ricerca. Professore, a proposito di ricerca, di questi giorni i risultati di una ricerca che dimostrano che il principio che la meditazione sfrutta da millenni, cioè quindi il respiro, influenza la mente. Questo perché si è scoperto che esiste un collegamento potente e diretto tra i neuroni che regolano il respiro e il resto del cervello. Quindi, professore, sì, possiamo in qualche modo anche utilizzare il nostro respiro per, in qualche modo, procurarci benessere. Si fa a livello orientale, ma si fa anche nel mondo occidentale con il training autogeno. Il training autogeno è una declinazione occidentale dello yoga o della meditazione orientali. Permette di controllare attraverso il respiro e attraverso anche varie funzioni degli organi interni le reazioni del cervello. Naturalmente queste sono cambiamenti lenti, per cui noi dovremmo mantenere poi una modalità di respirare, una modalità di vivere, come per esempio nella meditazione avviene, e questo ci manterrebbe nel tempo dei cambiamenti. Se noi lo facciamo per un quarto d'ora e poi entriamo nella vita frenetica della happy hour, poi a quel punto magari non si mantiene quel beneficio. Quindi in realtà questo approccio è un approccio da stile di vita. Per questo poi noi in realtà con i farmaci o con modalità più tipicamente occidentali otteniamo in tempi più brevi dei cambiamenti che sono quelli che cerchiamo. Professore, si dice aprile dolce dormire, tra l'altro aprile è anche il mese di prevenzione dell'ictus, parleremo anche di questo aspetto per fornirvi tutte le attenzioni e le indicazioni utili, ma il professore, il cervello non dorme mai, anzi quando dormiamo è molto indaffarato e lavora, vedi, no, noi vogliamo scrivere oggi una sorta di curriculum del nostro cervello col professor Albanese e lavora per la nostra salute, per il nostro benessere. Sì, il sonno è importante, è fondamentale, è un momento di recupero e di ricostituzione biochimica, c'è una sintesi proprio di importanti componenti dei neuroni. I neuroni quindi riposano, ma si rinnovano e si rigenerano nel sonno, tant'è vero che quando non si dorme, per esempio in alcune malattie anche particolari come l'insonnia fatale familiare, questo è incompatibile con la vita. Quindi il sonno è assolutamente indispensabile, non solo per vivere ma anche per vivere bene. È normale che noi ci rigeneriamo, e il sonno è l'elemento fisiologico della rigenerazione del sistema nervoso. Ma alcuni disturbi del sonno, in una fase particolare del sonno, possono fornire a un neurologo delle informazioni importanti. Perché, professore? Quali sono? Perché il sonno si può alterare, ci sono delle malattie del sonno che sono delle malattie particolari e rare, come la narcolessia o altre, che sono dovute magari a delle disfunzioni di trasmettitori nel sistema nervoso centrale. Però alterazioni più correnti, anche più comuni del sonno, per esempio un disturbo del sonno REM, la sindrome delle gambe senza riposo, possono essere elementi che precedono malattie neurologiche degenerative. Questa è una cosa è uno dei campanelli di allarme che può far pensare al futuro sviluppo di una malattia di Parkinson, al futuro sviluppo di una malattia di Alzheimer, una demenza o altre malattie neurologiche degenerative. Quindi delle minime alterazioni iniziali sono in grado di alterare il sonno prima che si manifesti qualunque altro sintomo a livello neurologico. Quindi spesso ci si arriva col senno di poi, spesso quando una persona ha raggiunto dei livelli successivi nell'anamnesi si racconta: ah sì, ma sono anni che io avevo difficoltà del sonno, oppure difficoltà dell'olfatto, che possono essere molto precoci in talune di queste malattie, o altri tipi di campanelli d'allarme. È molto difficile dare un valore predittivo, perché poi ci sono dei falsi allarmi che si possono verificare, quindi non tutti coloro che hanno taluni disturbi del sonno poi sono destinati a sviluppare malattie neurologiche importanti. È vera la leggenda metropolitana, ci scrive Luca da Bologna, che usiamo solo il 5-10% delle potenzialità del nostro cervello. Vi invito a sottoporre al professor Albanese anche questi dubbi. Sì, è normale, ma questo non vuol dire che il resto del nostro cervello è inattivo e che c'è una ridondanza così elevata. Questo vuol dire semplicemente che il cervello funziona a blocchi, come il computer. Anche quando usiamo il computer, noi usiamo una piccola parte del computer perché magari non stiamo stampando, non stiamo usando il modem, eccetera. È normale per il computer cervello. Chissà quante parti del cervello, quanta parte del suo cervello usa Deborah per leggere i mercati. Ormai li fai col piede sinistro, attivo, ma è tempo. Attivo chissà quale blocchetto adesso. Adesso mi faccio attenta, fare che una ti diagnosi guarda dal professore. Andiamo ai mercati tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Danacol, grazie agli steroli vegetali, riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Cuore e denari. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare. Rita Levi Montalcini. E noi riprendiamo il passo proprio con Rita Levi Montalcini. Mese di aprile, mese dedicato al cervello, perché La Salute Viene Parlando, un'iniziativa che Radio 24 e Cuore Denari porta avanti a fianco degli specialisti di Humanitas, e per il cervello avremo la possibilità per tutto il mese di avere il supporto, il sostegno del professor Alberto Albanese, responsabile dell'unità operativa di neurologia prima dell'ospedale Humanitas. 800 024 0024, se volete continuare a pensare con noi, a raccontarci i vostri dubbi, le vostre curiosità, che cosa vi fa dire che il vostro cervello è in forma, che cosa vi fa dubitare, soprattutto sapete interpretare i segnali che ci manda. Ne stiamo parlando proprio insieme al professor Albanese. Professore, abbiamo parlato di sonno, nutrimento. Il sonno è fondamentale per la salute generale e anche per quello del cervello, perché il sonno lo abbiamo sentito raccontare da più fonti, svolge un po' una funzione di spazzino, ecco. Però non solamente il sonno fornisce al neurologo degli indizi sulla salute del nostro cervello, ce ne sono tanti altri: quando ci muoviamo, quando adottiamo una determinata postura, anche quando scriviamo. Ecco, il neurologo ci osserva e raccoglie tante informazioni. Ci aiuti, perché così impariamo anche noi il linguaggio del nostro cervello e lavoriamo di conseguenza. Beh, alcuni aspetti del movimento sono costituzionali, quindi le persone si muovono nella maniera più diversa, e questo è caratteristico, può essere anche divertente da guardare e si può anche riprodurre in maniera, volendo, anche più teatrale. Però invece altri aspetti del movimento sono caratteristici di non perfetto funzionamento, ad esempio la lunghezza del passo. Quando il passo si accorcia, questo ovviamente, ammesso che prima fosse più lungo, si accorcia in una persona, questo è un indicatore di una disfunzione. Quando compare un tremore in chi non ce l'aveva, questo può essere indicatore di un invecchiamento cerebrale. L'incurvamento del tronco, ammesso che non sia dovuto a ragioni ortopediche, può essere un indicatore di un cattivo controllo posturale. Quindi il cervello può dare dei segnali visibili anche dal punto di vista motorio esterno. Naturalmente poi, nel caso in cui ci siano paralisi, quindi perdite di forza, parti del corpo che non si muovono o che si muovono troppo, movimenti involontari, anche questo è guardato e controllato dal neurologo, che poi fa una diagnosi e conseguentemente propone una terapia. Abbiamo anticipato che il aprile è il mese dedicato alla prevenzione dell'ictus cerebrale. In Italia l'ictus rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie ischemiche del cuore e del cancro. Tra i fattori di rischio di ictus ce ne sono alcuni che non sono modificabili, come l'età e il sesso, ma altri su cui noi possiamo assolutamente intervenire. Quali sono, professor Albanese? La grande partita è sugli stili di vita. Gli stili di vita denotano il rischio dell'ictus. Poi vi sono degli aspetti genetici non modificabili, però sui quali ci sono terapie, quindi persone che hanno una forte familiarità o che hanno una predisposizione per vari motivi possono curarsi. L'esempio più semplice è l'ipercolesterolemia, la pressione alta. Per esempio sulla pressione alta c'è chi misura la pressione e si rasserena, ma magari non sa che ha la pressione alta di notte, orari in cui in genere non viene misurata, e quindi a volte una registrazione nelle 24 ore può far scoprire una pressione alta in chi ritiene di avere una pressione normale. E quindi tutto questo è realmente curabile e modificabile, ma soprattutto gli stili di vita, il modo in cui si vive, quindi l'obesità, quindi il movimento, la capacità di muoversi in maniera anche un po' cardiovascolare, quindi con degli sforzi che implichino lo sviluppo, l'attivazione di certe reazioni di tutto l'organismo che migliorano proprio il funzionamento del metabolismo e quindi conseguentemente anche del cervello. Quindi sì, si può fare moltissimo sull'ictus. Noi in Humanitas abbiamo un forte impegno sull'ictus e su questo naturalmente c'è un'attività dopo l'evento soprattutto importante, ma la prevenzione è una partita che si gioca prima dell'evento, quando le persone non si sono ancora rivolte in ospedale, ed è una partita molto importante. Quindi attenzione anche alla pressione elevata, quindi trattare la pressione, misurarla, bisogna verificare che nella notte non raggiunga dei valori elevati. Sovrappeso, anche il fumo può essere il fumo è sicuramente, assolutamente, sì. E di nuovo il sovrappeso è importante. Professor Albanese, ci sono degli allarmi che vengono trascurati proprio perché sono circoscritti nel tempo. Può capitare che ad una persona si verifichino una serie di segnali che anticipano in qualche modo una sorta di mini ictus, ma proprio perché nel giro di poco tempo tutti questi svaniscono, non vengono considerati. Ne vogliamo parlare? Sì, sono degli episodi transitori, si chiamano attacchi ischemici transitori, che sono in realtà dei veri e propri ictus che hanno un esito poi benigno, che per definizione artificiale scompaiono entro le 24 ore, ma sono dei veri eventi, campanelli di allarme che devono poi portare a degli approfondimenti. Qualora questo non avvenga, si espone la persona al rischio che l'evento si verifichi una seconda volta e magari non in maniera così benigna come la prima. Quindi le parole che non vengono, un formicolio magari a un braccio. Difficoltà a muoversi, a muovere qualche parte del corpo per un periodo di tempo transitorio, disturbi sensitivi in una parte del corpo, quindi formicoli, perdita della sensibilità che poi ritornano, difficoltà della vista transitoria, quindi perdita di vista in un occhio magari per qualche ora, che poi ritorna, disturbi di questo tipo, anche cefalee particolari atipiche, dei dolori molto intensi, cefalee particolari in chi non ha l'abitudine ad avere cefalea e quindi diverse da quelle usuali. Sintomi neurologici, come dire, non normali, atipici soprattutto per quella persona. Poi passano e allora non ci si pensa più. Invece è importante fare due chiacchiere con il proprio medico. Noi facciamo due chiacchiere con Isabella, che ci chiama da Parma all'800 24 0024. Buongiorno Isabella, benvenuta. Buongiorno e grazie dello spazio che mi concedete. Allora, io penso di non avere problemi neurologici, ma in merito a come funziona il cervello, sì. Io svolgo un'attività di, mi occupo di strategia di comunicazione e anche di esecuzione, perché mi piace oltre che saper fare, ma ho il cervello che funziona così: durante il giorno studio, guardo, osservo, vado ai convegni, eccetera, poi durante la notte tutta questa nebulosa si sistema e mi vengono le frasi giuste, brevi, concise, aggettivi giusti di sintesi. Isabella, quando poi, si dice la notte porta consiglio. Ecco, invece, al mattino, quando cammino, quindi quando svolgo attività fisica, mi vengono le idee nuove. Cioè su come combinare in modo nuovo tutto ciò che ho ingranato, quindi funziono bene o quando dormo o quando fisicamente faccio qualcosa. Beh, Isabella, però lei ha già scoperto quando funziona bene. Allora andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ne parliamo con il professor Albanese, che ha anche delle notizie importanti che arrivano dalla ricerca. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Cuore e denari. Cervello, ne parliamo con il professor Albanese, ne parleremo per tutto il mese di aprile. Allora, in linea con noi la nostra ascoltatrice individuava il momento della giornata e anche le attività della giornata che le fanno fare click. Mentre dorme tutto va a posto e poi quando cammina. Sarebbe carino e interessante chiedere anche ai nostri ascoltatori se hanno una conoscenza così approfondita del loro cervello, sanno così dialogare bene, sanno come farlo rendere, se hanno anche delle strategie, dei trucchetti, perché no? Professor Albanese. No, ma infatti ha una consapevolezza interessante, però quello che dice è assolutamente normale, nel senso che la memoria non è il solo fatto di immagazzinare appunto in un magazzino delle tracce di memoria. La memoria è apprendimento, quindi un evento molto complesso che appunto si verifica diversamente in ciascuna persona e comunque non in un istante, in un tempo più lungo. E quindi quello che descrive l'ascoltatrice è assolutamente, virgolette, normale. Tutto normale. Se volete invece segnalarci qualche cosa che per voi non è normale, nel bene e nel male, magari avete scoperto nel tempo, si dice sempre che invecchiando si peggiora, invece magari voi avete scoperto proprio col passare degli anni che il vostro cervello fa degli exploit straordinari. Professor Albanese, noi dobbiamo tornare sul sonno perché ha acceso la curiosità e anche un po' la preoccupazione dei nostri ascoltatori e abbiamo parlato di memoria. Spesso noi valutiamo l'efficienza del nostro cervello in base alla memoria. Quando la parola non ci viene o non ricordiamo più una data dove abbiamo appoggiato il mazzo di chiave o la macchina o facciamo più fatica a ricordare, pensiamo che il nostro cervello ci segnali in questo modo le sue difficoltà. Sì, ci sono due cose secondo me da considerare a questo riguardo sulla memoria. Uno è l'attenzione. Noi a volte non consideriamo abbastanza l'attenzione. La memoria dipende dall'attenzione, anche molte delle nostre capacità dipendono dall'attenzione. A volte si presta poca attenzione ad alcuni aspetti e quindi non si memorizza o non si dà importanza. Questo è sicuramente un aspetto che influisce sulla memoria. Per quanto riguarda il sonno, bisogna considerare anche che il sonno è molto variabile. Io non voglio quello che abbiamo detto prima sia preoccupante per chi ci ascolta. È chiaro che il neurologo o un neurologo esperto o chi si intende di sonno è in grado di valorizzare o devalorizzare dei messaggi che arrivino dai pazienti, perché poi il sonno è così variabile in una società così rapida e così ha così forte impatto come quella in cui viviamo oggi. Possono esserci alterazioni del sonno che magari chi le vive le ritiene molto importanti, ma ascoltate dallo specialista e lo specialista non dà peso perché le ritiene delle variabili di una normalità, di una normale variabilità del sonno. Quindi io parlo naturalmente di alcuni aspetti tecnici che sono valorizzati dallo specialista. E allora lo specialista noi ce l'avremo per tutto il mese, con cui approfondiremo naturalmente anche le novità della ricerca nella prevenzione e nel trattamento di alcune malattie neurodegenerative. Penso ad esempio al Parkinson, è prossimo a una svolta. Continuate a seguirci. Il professor Albanese ha già postato nelle nostre pagine dei video in cui parla di plasticità del cervello, ma anche che cosa fare attenzione. Darei spazio ai nostri ascoltatori che ci stanno aspettando pazienti. Non so se anche la pazienza fa bene al cervello, ma secondo me qualcosa farà anche lei. Luigi, buongiorno dalla provincia di Messina, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io ho una domanda che ho posto a diversi medici. Io ho un tremolio da un mesetto di una palpebra. E tanti tanti mi hanno detto, ma no, una cosa, non ti preoccupare, fatti vedere la pressione. Ho fatto vedere la pressione, in realtà era un po' alta. Mm. E sono andato a un cardiologo, poi ho fatto tutte le visite. E quindi stringendo, Luigi, perché abbiamo anche Mauro da Modena. Questo fenomeno va e viene da un mese, da più di un mesetto ormai. Ogni tanto c'è questo tremolio. La palpebra si muove. Ma sì, può dormire sonni tranquilli a proposito di sonno, Luigi? Sì, possono esserci varie cause. Per esempio, può esserci delle miochimie delle palpebre, che sono assolutamente cose transitorie di non grande importanza. Può esserci un emispasmo dell'occhio, quindi, che spesso è collegato con una leggera ipertensione, che può essere una cosa che si un disturbo che si cura con infiltrazioni di tossina botulinica. Quindi ci possono essere varie possibilità, normalmente si curano tutte queste possibilità. Mauro ci chiama da Modena. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo un chiarimento. Io ho una casa all'estero e mi capita molto spesso di viaggiare di notte in autostrada. Mm. Mi accorgo che viaggiando i 130-140 il cervello è attento, però a un certo punto io parlo di cose strane, di miei progetti, e mia moglie, che sta dormendo di fianco, si sveglia preoccupata. Però mi rendo conto che viaggio a due velocità. Una, attento a quello che sto facendo, dall'altro il cervello gira, fa i suoi viaggi. Fa i suoi viaggi anche il cervello. Raggiunge un livello probabilmente meditativo, guida, mette il pilota automatico e il suo cervello va così in giro. Però vabbè, se funziona, immagino che qualora ci fosse un pericolo il suo cervello ritornerebbe istantaneamente in controllo della situazione, immagino. Qualcosa, il cervello ritorna efficiente. Probabilmente il fatto di farlo di notte facilita, perché lei ha dei ritmi circadiani, quindi il cervello tende ad andare di notte in una situazione di sonno, e quindi in quel caso non lo fa, però probabilmente il suo ritmo circadiano porta a delle elaborazioni che evidentemente possono avvenire mentre guida. Allora, professor Albanese, avremo l'occasione, come ho anticipato, di tornare su questo tema. Lo faremo con regolarità. Il professor Albanese ci ha promesso di segnalarci gli studi non più nuovissimi dei maggiori centri di ricerca. Un'anticipazione però su quello che rappresenterà una svolta nel trattamento della malattia di Parkinson. Vuole anticiparcelo? Magari abbiamo pochi minuti, ma anche per dare indicazioni alle famiglie che vivono con questo problema. Ma per esempio una cosa interessante che è in corso allo studio, di studio adesso, non abbiamo ancora risultati, però l'idea è molto interessante, quella di usare terapie immunologiche per le malattie neurologiche con accumulo di proteine, per esempio Parkinson, Alzheimer e altre malattie che causano un accumulo di proteine non volute, che quindi agiscono un po' come i cassonetti che invadono, come dire, il cervello attraverso questi accumuli, e allora si cerca con degli anticorpi specifici di andarle a toccare, ad agganciare, e quindi poi smaltirle per poi liberare il cervello da questo accumulo non voluto. Questa è una linea nuova, assolutamente nuova, con degli anticorpi monoclonali, che può forse dare una svolta alle malattie neurologiche degenerative. Stiamo parlando di uno svoltone, professor Albanese. Se funzionerà, sì, non abbiamo risultati ancora. L'immunologia sento che va forte, e questo sulle malattie neurodegenerative potrebbe davvero cambiare il destino e la prognosi della malattia. Sì. Naturalmente vi terremo aggiornati insieme al professor Albanese, che noi ringraziamo. Siamo proprio contenti. Assolutamente, che stamattina abbiamo fatto anche la diretta Facebook. Esatto, quindi tutti i suoi fan l'hanno potuta seguire in diretta. Per valorizzarlo, e quindi noi ci sentiamo tra poco, e noi invece torniamo domani. Ah, guarda, l'appuntamento è fisso e qua non si scappa. Insieme a Carmela Lauricella, che è proprio tra curriculum e cervello non si è perso una parola. Esatto. Che esercizio! Laura Vanossi e Marco Lombardo e tutto lo staff. A domani.